giovedì 4 aprile del 2013. 87.900, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa dal 1977, senza padrini, senza padroni. La radio è di chi se la sente, e chi se la sente può contribuire a farla vivere, ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185, Roma, oppure consultando il sito della radio, sito internet della radio www.ondarossa.info. alla voce sostieni sulla homepage troverà anche la modalità PayPal. Visionari, l'appuntamento settimanale con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. Dicevo con un po' d'anticipo perché ci si sono aggiunti strada facendo un po' di ospiti che però ritengo abbastanza importanti da sentire per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana. Quindi molto ricca, puntata molto ricca. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio alla voce trasmissioni visionari. Gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 4 aprile, i suggerimenti, le nostre indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra rassegne, festival e proiezioni, e poi i link che rimandano alla puntata precedente, all'archivio del 2013 e del 2012. Allora, Filippo Soldi, regista del documentario Suicidi Italia, che sarà presentato al Roma Independent Film Festival domani, se non sbaglio, alle 18.40. Filippo, intanto ben ritrovato, perché tu sei già stato nostro ospite in passato. Sì. Eccoci qui. Tra l'altro... io adesso sono in treno, non so se sentite, mi sto andando proprio da una presentazione di Case Chiuse, il documentario di cui, per cui sono stato vostro ospite. Sì, sì, sì. E, ma era anche Tutti giù per aria? No, io Tutti giù per aria non l'ho fatto. Ah, ok. Siamo partiti, mi ha chiamato lo stesso produttore, che è Alessandro Tarfaglia Poncini, mi ha chiamato perché voleva continuare l'esperienza di Tutti giù per aria. In particolare siamo proprio partiti da una frase di Tutti giù per aria, che era un documentario sulla vertenza d'Italia, sì, dove i manifestanti dicevano: oggi tocca a noi, domani voi. In realtà quel domani è arrivato, insomma, sì, almeno secondo noi. E siamo andati un po' a indagare che cos'era questo domani, sì, che poi purtroppo è oggi. Sì, sì, sì. Allora, questo, raccontaci un po', per chi fosse interessato e vuole venire domani alla proiezione, questo lavoro come nasce, qual è l'intento? Guarda, nasce con l'intento di raccontare in modo pulito, in modo senza tanti freni, quello che ci vediamo attorno. Ti dico questo perché il documentario è nato per una distribuzione via internet, quindi non avevamo le solite censure che ci si pone quando si fa un prodotto magari per la televisione o per altre distribuzioni. Volevamo semplicemente raccontare le difficoltà di chi lavora, delle imprese. Poi strada facendo siamo andati a raccontare storie di chi aveva perso magari persone care proprio a causa della crisi. Non è stato piacevole per noi, però non potevamo sottrarci a questo, anzi devo dire è una cosa purtroppo molto emozionante e che ci ha fatto cambiare idea su tante cose. Abbiamo cercato di dare una nostra chiave interpretativa, parlo plurale perché gli autori siamo tre, sono io, Andrea Cancellari e Maria Teresa Venditti. Sì. E il documentario è proprio un viaggio in questa situazione disperante che si può proprio, secondo me, paragonare ad un paese che si sta suicidando. Sì, sì, sì, sì. Non c'è altra. Le chiavi di lettura che vengono date probabilmente daranno fastidio a molti. Però purtroppo non ci sono come dire, elementi contro questa chiave di lettura, che magari non è l'unica, ma è sicuramente quella che proponiamo noi, ed è purtroppo tragica. Mm-hmm. lo so che magari non sto invitando la gente a vederlo, però non posso neanche dire che è un documentario pieno di ottimismo, è un documentario che però cerca di essere sincero. Certo. Senti Filippo, come vi siete mossi da nord a sud, provincia, metropoli, che classi sociali, insomma, quali sono stati i vostri interlocutori e poi come è strutturato, a interviste il documentario, dici questa serie di cose. Allora, il documentario è strutturato per quello che è successo, cioè un viaggio prima di tutto da parte nostra di conoscenza, perché noi, lavorando in un settore molto particolare in cui il precariato c'è sempre stato, paradossalmente forse sentiamo meno la crisi, perché la sentivamo già anche prima, e quindi volevamo conoscere queste situazioni. Noi ovviamente il primo impulso è stato quello di partire da alcuni lavoratori, ex lavoratori che erano stati messi in mobilità, quindi licenziati di Alitalia, perché già riconoscevamo col documentario precedente. Quindi poi abbiamo ampliato via via lo spettro d'indagine. Considerato è chiaramente tutta l'Italia. Poi per motivi nostri economici è ovvio che abbiamo dato la prevalenza tra storie simili a quelle che erano più facilmente raccontabili. Quindi siamo andati a diverse manifestazioni di aziende che chiedevano, ad esempio, che chiedevano, che licenziavano parte dei lavoratori. Diciamo più di protesta, ma soprattutto avendo contattato appunto persone che avevano subito lutti, via via loro stessi si davano poi il link per andare a sentire un'altra persona che aveva subito lutto, perché magari la persona cara si era uccisa, magari per vari motivi, uno perché l'azienda stava fallendo, ma anche quell'altro perché la pubblica amministrazione non gli pagava i crediti. E quindi abbiamo scelto diverse persone sulla base delle piccole differenze che ci sono all'interno di queste situazioni. Questo è stato, però si spazia un po' in tutta Italia, sì. da Rimini a Napoli, ecco, voglio dire, chiaramente poi Roma è appunto da cui noi partivamo. Sì, poi hanno fatto più scalpore, insomma, i vari suicidi di imprenditori, però è un fenomeno che riguarda un po' tutte le classi sociali. Sì, riguarda tutti, perché non sono solo gli imprenditori, ma sono anche braccianti. Noi intervistiamo ad esempio la moglie di un muratore che si è dato fuoco. Ecco, ad esempio, in questo caso questo signore non si è per mancanza di lavoro, ma per la pressione a cui veniva sottoposto da parte dell'ente di riscossione delle imposte, Equitalia. Sì, sì. Tant'è che lui si è ucciso proprio davanti alla sede di Equitalia. Perché ci sono varie, mentre non so, l'albergatore che ha scelto di togliersi la vita. Perché l'albergo non andava più come negli anni precedenti e lui aveva contratto mutui con banche e quant'altro, quindi le situazioni sono diverse l'una dall'altra. Poi c'è anche un insegnante, ad esempio, a cui non veniva mai confermato il contratto, quindi era sempre precario. Sì, la cosa che abbiamo notato noi è che, ad esempio, nel nostro elenco c'erano solo persone di sesso maschile. In realtà, poco dopo che abbiamo finito il documentario, abbiamo avuto la notizia di una donna che ha compiuto questo gesto. Quindi, prima si parlava di totalità maschile, adesso invece comunque rimane una maggioranza. E questo secondo me può far riflettere, nel senso che tanto vale la pena di considerare il tema dell'inserimento effettivo nel mondo professionale della figura femminile, che rimane comunque non paritario. Sì. E poi forse anche magari un diverso modo di affrontare le difficoltà della vita. Sì, questo non lo so, sì. Però diciamo che tutte e due queste. Certo è che noi abbiamo sentito molte persone, molte donne, vuoi mogli, vuoi figlie, mogli, insomma vedove, e questo mi ha dato un po' l'impressione di andare in un paese che era appena uscito da una guerra, cioè di andare a sentire le vedove di guerra. Sì, sì, sì, sì. Beh, è una guerra economica sicuramente quella che si sta combattendo. Filippo, ti volevo chiedere come mai questo, cosa sta a significare questo sottotitolo Storie di estrema dignità? Questo sta a significare una cosa che ci hanno proprio suggerito le persone che abbiamo intervistato, perché io, allora, ti racconto, anni fa, tanti anni fa, una persona amica di famiglia aveva compiuto questo gesto e io, che ero poco più che bambino, sono stato un ragazzino, mi era rimasta impressa la moglie di questo signore, la vedova, che oltre al dolore aveva anche un certo risentimento nei confronti del marito, perché diceva: mi ha lasciato qui con tutti i problemi. Io mi aspettavo di trovare anche questo tipo di frasi nelle persone che andavo ad intervistare. In realtà nessuno ha mai detto questo, cioè tutte quante a dire: ha fatto questo per dignità, ha fatto questo per amore nei nostri confronti, ha fatto questo perché si è voluto assumere il peso di responsabilità non sue. Quindi, è cambiato proprio anche l'approccio a questo tipo di tragedia. Sì, è cambiato l'approccio, ma è come se queste vedove, questi diciamo sopravvissuti, non considerassero suicidio quello che hanno fatto i loro congiunti, lo considerano un suicidio indotto da qualcun altro. Sì. Per cui cioè, lo considerano più un'ultima affermazione estrema della dignità della persona, ma non un venir meno alle responsabilità. Non lo considerano una fuga. Capito. Per cui questo titolo, insomma, ci sentivamo di darlo perché è una nota proprio ricorrente. Ed è peggio, secondo me. Senti, cioè, Filippo, stavi finendo, scusa. Di omicidio, non di suicidio. Sì. Volevo chiederti, dopo la presentazione al Festival a Roma, che tappe seguirete? Ma adesso stiamo chiaramente puntando anche ad altri festival, organizziamo proiezioni laddove magari a chiedercelo sono associazioni di imprenditori o che nelle varie città. Il documentario è disponibile su internet, lo si può noleggiare e acquistare su internet, e questa è la distribuzione. Non abbiamo mai pensato e non abbiamo mai e non vogliamo andare, non abbiamo proposto a televisioni, perché ci siamo stufati di una comunicazione per forza di cose falsata e per forza di cose censurata all'origine. Quindi noi lo facciamo, chi lo vuole vedere lo vede su internet o viene alle proiezioni o ce lo chiede e ve lo mandiamo. Uscirà probabilmente anche in DVD. Dacci allora anche un riferimento internet, oltre chiaramente a ricordare poi al termine del collegamento l'appuntamento per il domani, per la proiezione di domani. C'è un vostro sito internet? Il sito di quelli che sono anche i coproduttori del documentario, che è Onair, www.onair. OVN, scritto O di Otranto e W e poi NAIR.it, e lì lo si può scaricare, noleggiare o acquistare. È una piattaforma di video, per cui abbiamo scelto questa strada perché ci ha consentito più libertà. Bene. Filippo, io ti ringrazio, spero di risentirti presto. Ricordiamo l'appuntamento con il Roma Independent Film Festival, la proiezione domani pomeriggio alle 18:40. Per quanto riguarda il vostro documentario Suicidio Italia, Storie di estrema dignità. Un abbraccio e a presto. Un abbraccio anche a te, grazie. Ciao. Ti so dire com'è andata. Ciao. Ok, ciao. Gabriella Gallozzi, ben ritrovata a Visionari su Onda Rossa. Grazie a voi, grazie Federico, buongiorno. Buongiorno, con te per parlare brevemente di un appuntamento della giornata di domani con il tuo progetto BookChack Azione. Allora, intanto ricordiamo per chi è all'ascolto e non sapesse di cosa stiamo parlando, cos'è questo progetto e poi vediamo un po' più nello specifico la giornata di domani. Certo, allora BookChack Azione è un premio dedicato al rapporto, all'incrocio, al mettere insieme cinema e letteratura. Parte da un sito che è www.bookchack.it nel quale gli editori mettono i romanzi che sono più adatti per essere trasformati in film. Quindi una piattaforma permanente nella quale appunto a disposizione degli editori e degli scrittori e dei produttori evidentemente, anche dei registi che sono in cerca di storie che spesso proprio nella letteratura possono trovare. Del resto il rapporto fra cinema e letteratura esiste da sempre, tanto più adesso lo vediamo, insomma è un rapporto che è sempre più evidente, è una tendenza in continua crescita. Per cui da questo sito, che abbiamo realizzato grazie a un finanziamento del Ministero dei Beni Culturali un paio di anni fa, il supporto dell'ANICA, dell'ANAC e dell'APT e anche del Solinas, abbiamo realizzato questo premio. Allora, questo premio in due parole è rivolto ai filmmaker, a tutti i filmmaker che sono invitati a realizzare i video di appena 3 minuti ispirati a 3 libri contenuti nella nostra banca dati. Non stiamo parlando però di book trailer, attenzione, che sono già l'esistente, che in questo momento hanno in qualche modo un po' di visibilità, ho visto anche dei festival che si sono attivati per spingere sull'idea del book trailer. Noi pensiamo a qualcosa che deve venire, a qualcosa che è nel futuro, cioè a dei BookChack movie, cioè dei video che sono piuttosto video vicini al territorio della videoarte, che possano diventare delle quarte di copertina per i libri elettronici, per gli ebook. Mm-hmm. Quindi noi domani, non so se sto dicendo tutto troppo tutto troppo veloce. No, ti riesco a seguire, per cui va bene. Ok, va bene. E quindi appunto l'idea è qualcosa che verrà, che noi appunto offriamo come palestra di sperimentazione agli autori attraverso il nostro sito, che quest'anno appunto ha anche la partecipazione di Skyarte, per cui e il sostegno delle giornate degli autori, per cui i vincitori del premio andranno a Venezia, avranno il passaggio alle giornate degli autori, avranno un passaggio su Skyarte e ci sarà anche un premio in denaro per il primo classificato, 500 euro. Domani pomeriggio a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio, ospiti della Scuola del Documentario Cesare Zavattini, alle ore 17 in Viale Ostiense 106, presentiamo questa edizione. La presentiamo soprattutto insieme ai nostri giurati, che sono dei giurati straordinari, a cominciare da Ugo Gregoretti, che sarà ospite dell'incontro domani pomeriggio, Ettore Scola, Citto Maselli e Gianluca Arcopinto. E in questa occasione appunto avremo anche gli autori, gli scrittori dei romanzi che abbiamo selezionato quest'anno, che sono 3 storie particolari, molto diverse fra loro, proprio pensate per incontrare la sensibilità diversa degli autori che poi si cimenteranno nella creazione di questi BookChack movie. E il primo dei romanzi si chiama Verrà cantando il sangue, di Vittorio Del Tufo, uno scrittore giornalista napoletano, e è una sorta di Codice da Vinci in versione napoletana legata al mistero del sangue, del miracolo del sangue di San Gennaro. Poi abbiamo Se son rose di Massimo Vitali, un giovane scrittore bolognese, che è una storia quasi alla Ionesco, tra il grottesco e il surreale, che parla di un uomo che tornando a casa appunto non trova più la moglie, perde il lavoro e quindi decide di andare al cinema e fatalmente resta chiuso nel bagno delle donne, per cui deciderà di vivere là. Dopodiché abbiamo Pelle e ossa di Paolo Cognetti, edito da Minimum Fax, che è un racconto di anoressia, però anche questo molto cinematografico, perché è tutto ambientato in una clinica svizzera per ricconi, soprattutto per riccone. E quindi appunto gli autori potranno scegliere quale trasformare in video. Il riferimento è sempre il nostro sito www.bookchuck.it, nel quale troveranno tutti gli estremi per partecipare al concorso. Un'ultima cosa, le date. Allora, per iscriversi bisogna andare sul sito, scrivere a info.bookchuck.it, registrarsi, semplicemente mettere i propri dati anagrafici e dire qual è il romanzo che si sceglie. Questo entro il 30 di giugno, per cui iscrizione entro il 30 di giugno e consegna dei materiali entro la fine di luglio, perché poi chiaramente il passaggio al Festival di Venezia per i vincitori ci sarà durante il periodo del festival, che è tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre. Bene, credo sei stata molto esaustiva. Gabriella, un abbraccio, l'appuntamento l'hai dato per domani e ci risentiamo presto. Grazie, partecipate numerosi. Ok, ciao. Ciao. Grazie, ciao. Allora, Agostino Ferrente, intanto ben ritrovato a Radio Onda Rossa, a Visionari. Ben ritrovati voi, per fortuna che esistete. Allora, è sempre un piacere. Noi ci eravamo sentiti a fine agosto per Le cose belle, il lavoro, il documentario che hai realizzato insieme a Giovanni Piperno, che invece non sentiamo da più tempo, ma comunque... buono quello, direbbero. Buono quello. Intanto leggo il... Allora, questo perché? Perché il vostro documentario sarà presentato all'interno della nona edizione di Italia Doc di Maurizio Di Rienzo, mercoledì prossimo, della prossima settimana, alla Casa del Cinema qui a Roma. E tu mi hai mandato questo SMS che leggo a questo punto in diretta. Giuria presieduta dalla produttrice Grazia Volpi e composta dal regista marocchino Majid Rchiche, non so se pronuncio bene, l'attrice ivoriana Therese Taba, l'attore egiziano Fati Abdelwahab e il regista spagnolo Isaki La Cuesta ha così motivato il premio. La speranza e il desiderio di riscatto in un racconto sfrontato e severo e al tempo stesso tenero e toccante, che racconta in una sapiente miscela tra documento sociale, struggente poesia, la forza speciale di un popolo, la sua intrinseca profondità e la sua disincantata autoironia, il tutto con l'ambizioso e riuscito obiettivo di fotografare il tempo mantenendo il precario equilibrio tra speranza, dolore, amore e nostalgia, delegando alla colonna sonora bellissima il compito di dipingere ciascuno di questi sentimenti. Ecco, mi sembra una bella motivazione per questo premio, no Agostino? Sì, intanto specifichiamo, il premio riguarda il Festival Internazionale del Mediterraneo di Tetuan, sì, appunto in Marocco, sai, poi noi documentaristi sopravviviamo, cioè la fiammella rimane accesa con queste motivazioni, per quello avevo fatto taglia e incolla e, come devo dire, te l'avevo girata, perché poi alla fine sono arrivata alla conclusione, non vittimistica, mettiamola così, provocatoria e ironica, che in Italia fare i documentaristi è più difficile che fare gli attivisti gay in Iran. Sì. Cioè, ormai la situazione è tale per cui, paradossalmente, ma un po' mi ripeto rispetto a quello che ci dicemmo l'altra volta, se da un lato è diventato più facile, tra virgolette, fare documentari perché le telecamere, le attrezzature ormai hanno delle qualità invidiabili, cioè fai un film con una telecamera che costa poco e che ha una qualità simile a quella, cioè puoi andare direttamente al cinema, cosa che anni fa era impossibile perché c'era l'imbuto dei costi di produzione, la pellicola eccetera, quindi si è avverato il sogno di Zavattini, per cui chiunque può realizzare il suo film. D'altro canto però sono tutte opere che sì, chi lo vede è quello il problema, si sono abbassati, però chi lavora come fa, cioè non viene pagato se non ci sono i budget, se il budget non c'è, se non c'è una produzione, la produzione non c'è se non c'è una distribuzione, quindi tutta la filiera, come devo dire, va a frantumarsi di fronte a una mancanza di richiesta di mercato, per cui il documentario si può fare anche su una gamba sola, cioè chiunque può prendere la telecamerina, l'iPhone e fare un documentario bellissimo, sì, d'accordo, però poi come paghi i collaboratori, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, il problema è questo, è rimasto questo, è sempre peggio, chi dovrebbe occuparsi di documentari? La RAI, il Ministero, eccetera, lo fa parzialmente, dovrebbe farlo molto di più. D'altronde si capisce bene che film di finzione c'hanno gli attori o hanno delle tematiche un po' più da commedia, quindi sono più appetibili, o potremmo usare un termine tipo commerciale, anche se poi la commercialità non è un genere ma è una speranza, perché spesso uno fa il film pensando di e poi non incassa. Allora, a sua volta, pure il cinema di finzione non è che se la passi bene come incassi eccetera, per cui ben vengano quelle motivazioni, almeno, che ti devo dire, cioè uno, almeno la gloria e la soddisfazione artistica. Allora, le cose belle, quattro ragazzi, due ragazzi e due ragazze, Napoli 10 anni dopo, perché lo spunto viene da un vostro lavoro precedente, siete passati però da un approccio, mi sono anche riascoltato la puntata in cui abbiamo parlato con te di questo lavoro, dalle interviste con sguardo alla telecamera invece a momenti di vita ripresi naturalmente. Sì, con uno sguardo, diciamo che quando noi realizzammo nel lontano 99 Interviste a mia madre, con un budget che, insomma, da quarantenne in video, cioè in video in me stesso trentenne, che all'epoca con i soldi della Rai riusciva a fare un film con 145 milioni di lire, di cui 90 dati dalla Rai e il resto messi dal produttore locale, eppure con quel budget lì eravamo incastrati in una tempistica, diciamo, televisiva, per cui abbiamo scovati velocemente, abbiamo fatto le riprese veloci, abbiamo montato altrettanto velocemente, il tutto è andato in onda 3 mesi dopo che avevamo iniziato a lavorarci, e quindi c'è rimasto, pur avendo fatto una cosa di cui eravamo orgogliosi, che in televisione era anche un po', se vogliamo, smascherato il cliché, per cui il documentario non interessa, perché addirittura imparammo l'uso della parola share, che di cui ignoravamo l'esistenza prima, fece uno share altissimo in prima serata con Carlo Verdone e Mike Bongiorno in controprogrammazione. E ciò nonostante fumo molto contenti, comunque ci rimase un rammarico, cioè di aver dedicato pochissimo tempo sia alle persone, ai protagonisti del film, perché non puoi raccontare delle vite girando 2 settimane, e sia a noi come registi, nella nostra vanità avremmo voluto avere più tempo per usare un linguaggio più cinematografico. È questa rivincita o come dire questo debito da pagare e c'è stato 10 anni dopo, quando siamo tornati a cercare quelle stesse persone, ormai da ragazzi diventati adulti, raccontando loro, ma anche la città nella quale sono vissuti, che, ecco, è Napoli. Proprio, e quindi questo... partiamo, scusami, da Napoli di Bassolino, piena di speranza, attori, registi, sceneggiatori, scrittori, pittori, che andavano lì alla Napoli che poi tutto il mondo ha conosciuto tramite il romanzo Gomorra, il film, eccetera, eccetera. Ecco, proprio a proposito di Napoli, la scorsa volta ne parlavi come di una punta di un iceberg. Tutto quello che è successo a Napoli poi si è riprodotto su scala nazionale. Sì, ma questa è un'osservazione che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, perché di solito quando si realizza un film in queste realtà fortemente caratterizzate dal punto di vista culturale, si rischia sempre un po' un approccio folcloristico, no? Ah, guarda com'è caratteristico quello che canta, fa la posteggia. In realtà non è così, perché ci siamo resi conto che una città come Napoli, suo malgrado, è anche un po' un laboratorio, un termometro dell'Italia, perché quei meccanismi che non funzionano o che funzionano in piccolo, poi alla fine sono rivelatori di quello che succede dopo in grande, e per cui, cioè, se noi scoprivamo, come dire, le famiglie allargate piuttosto che la precarietà del lavoro, in alcuni casi l'illegalità, tutte cose che poi si sono verificate in Italia, addirittura in Europa negli ultimi anni, ma a Napoli paradossalmente succedevano prima, quindi bisogna dare pure questo primato, che ovviamente non riguarda solo Napoli, riguarda quelle città dove, come dire, l'umanità si ritrova intasata in una sorta di imbuto, per cui o ne esce con una soluzione geniale che poi viene adottata da tutti, oppure anticipa quelli che poi sono i corticircuiti più internazionali. Tra le motivazioni c'è anche un riferimento alla musica, Cagnolo Guercio, che tra l'altro sarà nostro ospite qui al Radioteatro a maggio, te lo anticipo così, è un caro amico anche lui, e bravo, lo stimo, insomma lo conosco da tempo. E a questo punto, Agostino, ricordiamo l'appuntamento di mercoledì prossimo alla Casa del Cinema per chi volesse conoscere questo vostro lavoro? Sì, tra l'altro un'occasione unica, detta così può sembrare una cosa positiva, in realtà ha a che fare con le nostre limitate risorse economiche, per vedere la versione attuale, che come ti anticipai già nella vecchia intervista, come devo dire, è pronta ad essere sostituita dalla versione nuova a cui abbiamo lavorato e che speravamo di riuscire ad approntare prima avendo più finanziamenti. Adesso abbiamo vinto questo premio in Marocco, investiremo quei soldi per apportare le modifiche, che però non saranno visibili già nella versione, diciamo, non definitiva alla Casa del Cinema, che ci sarà mercoledì, ma appunto poi venite a vederlo, poi quando sarà vedremo la prossima e poi facciamo il gioco, trova le differenze. Agostino, un abbraccio. Di Grifiana Memo, un po' ho frequentato troppo Alberto Grifi, per cui l'edizione 2012, l'edizione 2013, il film cambia ogni mese, vabbè. Un abbraccio a te, a Giovanni, e ci sentiamo presto. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao, buon tutto, buona radio, ciao. Agostino Ferrente, per quanto riguarda Le cose belle, mercoledì prossimo della prossima settimana alla Casa del Cinema per la nona edizione di Italia Doc. Giorgio Diritti, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a voi, con grande piacere ritorno da voi a Radio Onda Rossa, perché insomma c'è un legame dai tempi del vento. Eh sì, c'è un vecchio legame, ricordiamolo, anche per chi non conosce questa storia e magari ascolta da poco questa radio, che il primo e unico premio che abbiamo istituito come trasmissione qualche anno fa lo hai vinto tu, con Il vento fa il suo giro, perché è un film che ci ha visto tutti concordi e tutti e tutte concordi, ci era molto piaciuto, abbiamo seguito fin dal tuo debutto, la tua avventura cinematografica come autore, e quest'oggi siamo qui per parlare di un film che è uscito lo scorso giovedì, quindi da una settimana, Un giorno devi andare. Intanto Giorgio, ti chiedo come è andata questa prima settimana di programmazione. Beh, molto bene. Molto bene. Nel senso che la risposta del pubblico è calda, sia nei numeri, come si suol dire, perché comunque il film è insomma il quarto per incasso copia, addirittura il terzo, insomma, in alcuni momenti, e quindi questo è un segno importantissimo, e poi in generale è un buon risultato, ma al di là di questo credo che insomma sia molto bella la risposta che io sento dal pubblico tramite Facebook, tramite mail, tramite messaggini, tramite tutto quello che c'è, e lettere che arrivano in ufficio, eccetera, comunque di una grande, diciamo, di una grande partecipazione che non è solo l'apprezzamento, ma anche diciamo qualcosa di più, spesso diventa un dialogo, qualcosa in cui le persone insomma entrano in relazione con me, ma anche molto col film soprattutto. Ecco, come lo descriveresti in breve per chi ancora non lo conosce e vorrebbe andare a vederlo? Ma lo descriverei come un viaggio, perché in effetti è la storia di un viaggio, ma con diciamo con la dimensione di un viaggio non da turisti organizzati, insomma, che cos'è un viaggio quando si parte veramente con una buona dimensione d'animo, mi viene da dire, cioè si va alla scoperta delle cose, e spesso quando si esce dalla dimensione della routine quotidiana, insomma, delle cose che normalmente facciamo, c'è l'occasione di avere degli stimoli nuovi, visivi, soprattutto poi negli incontri con le persone. E tutte queste cose inevitabilmente ti ripropongono il senso del tuo vivere, diciamo il senso, adesso può sembrare una parola molto importante, però comunque ti aiutano, ecco, forse è meglio dire, a ritrovare le priorità, ti aiutano a scoprire meglio le cose che sono per te importanti, per stare un po' meglio, ecco, per essere un po' più felici, perché io penso che in questo momento in cui in generale in Europa, ma anche in Italia in modo palese, c'è un senso un po' di stanchezza, di fatica, l'economia che sembrava essere, o meglio il sistema consumistico economico che sembrava essere il traino di tutto, mostra finalmente i suoi limiti, forse c'è bisogno di altro, e questa può essere un'occasione, insomma, il viaggio è un'occasione. Ecco, il viaggio di Augusta nel film, secondo me, è come dire un parallelo su quello che poi spero possa essere anche il viaggio dello spettatore. Oh, ecco, proprio a questo proposito mi chiedevi il mio parere quando ci siamo visti alla proiezione, e io anche concordo, nel senso, mi sembra proprio la ricerca di un senso. Tra l'altro la protagonista, ecco, rispetto all'approccio che hanno verso, stiamo parlando di comunità indigene in Amazzonia, sia i missionari che chi vuole poi fare affari hanno un rapporto non paritario con le persone, da una parte convinti della propria fede e poi impegnati solo a trasmettere questa fede piuttosto ciecamente, e altri che invece vogliono semplicemente speculare sulle economie locali, e invece lei ricerca proprio un rapporto paritario con le persone vivendo anche nella comunità, nella favela. Sì, credo che purtroppo l'uomo bianco ha ancora questo vizio incredibile di andare in giro per il mondo e conquistarlo e imponendo delle ricette che secondo lui sono giuste. Poi queste ricette sono quelle che ci fanno vedere che in realtà, appunto, siamo ormai inquinati in più di 2/3 del pianeta, l'acqua dei problemi, eccetera. Per cui l'approccio che io sento importante di Augusta, che vorrei che un po' tutti noi riuscissimo ad avere, quello, appunto, come dici tu, paritario, cioè comunque con la capacità di un incontro dove le persone danno ognuna ciò che c'è di positivo, di buono, e da lì si va verso uno sviluppo, diciamo, migliore. Sì, sì. Però purtroppo il mondo, diciamo, ha ancora questo atteggiamento dell'uomo bianco che, dopo aver sterminato molte, diciamo, popolazioni, tende ora con meccanismi più sottili a sfruttarle, magari in senso economico, a imporre delle cose, insomma, non capendo che invece lì c'è la radice probabilmente di una felicità, di una sensazione diversa, e non per il mito del buon villaggio, perché anche lì ci sono tutte le contraddizioni, i mali e le cose più negative degli animi umani, no? Però lì ci sono forse dei suggerimenti su come alcune cose semplici ci danno un rapporto con la vita di minore angoscia, ecco. Sì. Senti, che ti ha lasciato questa esperienza, questo incontro con le comunità indigene dopo la realizzazione del film, Giorgio? Ma un rapporto di grande, come dire, rispetto, e contemporaneamente di riappropriazione, appunto, di sensazioni che qui spesso dimentichiamo, cioè lì è normale, nel momento in cui ti incontri le persone, che ti vengano incontro con un sorriso, no? Sì, e che ci sia, dal punto di vista dei bambini, anche una grande disponibilità e voglia di giocare con te, che ci sia una carnalità, vorrei dire, nella relazione, un'autenticità, una densità, qualcosa di vero, autentico, che noi invece abbiamo scatolato sovente in vestiti firmati, in atteggiamenti, appunto, rispettosi, ma che poi rischiano di diventare freddi, in case con molte saracinesche e grigi, insomma. Giorgio, è stato ancora una volta un piacere, io spero di sentirti presto. Ricordiamolo, Un giorno devi andare è nelle sale da una settimana. In quante copie, Giorgio? Un centinaio di copie. Bene, bene. E ti volevo anche, sì, vorrei dire anche agli spettatori che è un film di grande, grande forza visiva, di grande affascinazione, perché certo. È un film anche che dà grandi respiri nel rapporto con la natura, con il Rio delle Amazzoni, con luoghi che sono proprio di per sé un regalo veramente per chi ci va, ma anche vedendolo, insomma, penso saranno una grande emozione. Eh sì. Un abbraccio e ti ringrazio, Giorgio. Grazie, Federico. Ciao, a presto. Un grande abbraccio. Ciao. Giorgio Diritti, regista di Un giorno devi andare. Per i contatti, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@andarossa.info, per gli sms in diretta 342-357-4357, e poi c'è la pagina Facebook di Visionari. Vincenzo Marra, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Come stai? In piedi, bella questa. Ogni tanto me ne tiri fuori una. Senti, allora, per nuovamente con te per parlare del Gemello, il tuo documentario, ne avevamo parlato qualche mese fa in occasione della presentazione veneziana, questa volta sarà è in programmazione alla nona edizione di Italia Doc di Maurizio Di Rienzo. Ieri c'è stata la prima proiezione, oggi la seconda e poi sabato e domenica le altre due repliche. Allora, ne parlavamo la scorsa volta, è la storia di un rapporto tra un detenuto e una guardia carceraria, e un detenuto da 12 anni dentro, giusto Vincenzo? 16, adesso sono 17. 17 anni. Quindi siamo a Napoli, che è uno dei tuoi luoghi in cui realizzi i tuoi documentari. C'è questa, oltre ai film di finzione, tu hai questa, questo secondo, diciamo, seconda pelle, realizzi documentari sui luoghi, sui tuoi luoghi, quelli che ti ispirano, della tua città. Sì, uno dei motivi, diciamo così, è anche un'idea, un'illuminazione, una necessità che ebbi tanti anni fa, insomma, quando ho cominciato a fare questo mestiere, era il modo di poter raccontare la mia città per una necessità che ho io, una passione, un amore, un interesse, anche con la speranza di lasciare così dei frammenti, e quindi l'idea fu quella di raccontare Napoli attraverso dei luoghi, sì, secondo una mia geografia molto personale. Quindi partire da dei luoghi e riprendere in uno stile che poi è rimasto abbastanza simile, anche se poi si è affinato nel corso degli anni, le persone che sono dentro questi luoghi. Quindi un progetto che spero che possa continuare, andare avanti, incominciato nel 2000 con il film Strani alla massa su un gruppo di tifosi ultras del Napoli, e adesso appunto il quarto capitolo è questo film documentario realizzato in carcere, nel carcere di Secondigliano, e che, ripeto, hanno questa particolarità di avere una serie di cose in comuni molto, molto forti tra di loro, in termini di stile, di durata, di uso della macchina da presa, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Tra l'altro, dicevi bene, dentro Secondigliano, perché l'hai realizzato proprio da un punto di vista dentro il carcere, in una maniera piuttosto partecipe e intensa. Sì, questi viaggi che faccio io, diciamo, sono tentativo di fare un'entrata dall'interno dell'anima e dei luoghi delle persone, sì. E quindi sì, il tentativo è quello di fare un film con grande stretto rapporto con i protagonisti, e il tentativo anche di cercare di far sparire quanto più possibile la macchina da presa. E quindi un documentario che cerca in tutti i modi una drammaturgia e un tentativo anche di evitare alcune cose, diciamo così, nell'accezione comune del documentario, come le interviste con un personaggio che si racconta davanti a una macchina, la voce off, eccetera, eccetera, insomma, una serie di cose che a me non piacciono, ma cerco di entrare fortemente in quella realtà, però senza far sentire la mia presenza. Non so se l'ho spiegato bene. Sì, sì, sì, sì. Questo è il tentativo. Vincenzo, durante... stavi continuando, scusami. No, dicevo che alla fine, insomma, questa era un'idea di fare un film all'interno del carcere che avevo da tanti anni. Ho trovato, dopo una ricerca molto lunga e anche la possibilità enorme che mi è stata data dall'autorità carceraria, di fare un film all'interno senza tante preclusioni, nel senso che ho creato un rapporto straordinario, e i protagonisti, che sono due, è Raffaele, questo ragazzo di 28 anni che tra carcere minorile e carcere normale è dentro da una vita, 7 anni, sicuramente legato alla camorra, un personaggio, diciamo così, considerato un po' emergente, e dall'altra parte il capo della sezione adriatica, dove lui era detenuto nel carcere Secondigliano, diciamo, la guardia, quindi se fosse uno schema un po' ripartendo dai pilastri cinematografici, un po' guardie e ladri, no? Questa era un po' l'idea che mi affascinava. E siccome, notando questa, la realtà, la vita, attraverso i sopralluoghi, gli incontri preliminari che avevo fatto, notavo che questo, che la guardia carceraria, che si chiama Nico, era solito fare degli incontri con i detenuti, proprio perché è una persona un po' speciale, sì. Io ho accentuato questa cosa facendoli incontrare. Nel corso del film ci saranno 4 incontri tra i due protagonisti, e questa è una delle particolarità molto forti per raccontare appunto questo viaggio all'interno, e cercando di dargli quanto più possibile anche un'originalità, sì, cioè non una banalizzazione, cercare di riproporre delle immagini che in un luogo come quello, il cinema, la televisione, sono molto, hanno partorito tanto. Sì. Senti Vincenzo, c'è questa occasione, credo doppia proiezione ogni giorno all'interno di Italia Doc, giusto? Alla tua presenza, tra l'altro. No, io sono stato ieri. Ah, sei stato ieri, ok. Insomma, una cosa a cui ci tengo è questo, penso, non mi ricordo se è la terza, sicuramente la seconda volta che uno di questi miei film documentari partecipa. Ieri c'era la sala piena, penso che può essere una... sempre una buona iniziativa per vedere delle immagini un po' che secondo me di cui si ha bisogno un po', sì, no? Sì, vedo sì, che sì. Queste sezioni, questi festival, questi incontri, cinema del reale, cinema nascosto, il cinema che non si vede, sempre hanno questi nomi, sì. L'Italia raccontata, evidentemente c'è la consapevolezza un po' triste che un certo tipo di immagini, di film, di discorsi sono un po' difficili da arrivare al grande pubblico, però poi nel titolo di queste manifestazioni si legge anche una necessità, no? Sì. E quindi, boh, secondo me è una... non sarebbe che un po' inutile, no? Per orare la propria causa, però insomma penso che possa essere un'occasione importante, sì. Per chi ha voglia di vedere una cosa diversa e cercare anche di capire forse in maniera un pochino differente quelle che sono le realtà del nostro paese in un momento anche come questo, e sì. Quindi l'idea di unire dei documentari, dei film documentari in una rassegna che possa raccontare anche il lungo e il largo il nostro paese, secondo quella che poi in molti paesi del mondo è diventata anche invece uno stile molto più riconosciuto, cioè questi film verità. Leggevo un articolo qualche tempo fa che in molti paesi più sviluppati del nostro, tra virgolette, a livello culturale, hanno preso come grande possibilità di raccontare e soprattutto anche di dimostrare alcune cose. Quindi credo che sia un'occasione importante per chi è a Roma e chi vuole venire, certo, a vedere qualcosa di diverso. Ricordiamo le giornate oggi e poi sabato e domenica 6 e 7 aprile, il gemello di Vincenzo Marra. Vincenzo, a questo punto un abbraccio, un in bocca al lupo, e ci sentiamo presto per le prossime novità. Speriamo che ce ne sia. Ciao caro. Grazie a voi, arrivederci. Ciao. Questo è Visionari su Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Proseguiamo con gli ospiti. Fabrizio Ferrari, direttore della 12ª edizione del Roma Independent Film Festival, al nuovo Cinema Aquila qui a Roma dal 4 al 10 aprile. Fabrizio, ben ritrovato. Sì, buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Allora, 12ª edizione, sempre con te a parlarne, una settimana di programmazione, e cosa caratterizza quest'anno il festival? Beh, quest'anno abbiamo tantissimi film, circa 100 film in concorso, e beh, diciamo la caratteristica forse sono questi lungometraggi italiani. Abbiamo 7 opere prime italiane e presentiamo ogni sera, quindi allo spettacolo, ultimo spettacolo alle 22:30, un lungometraggio italiano. Sono partito un po' dalla fine, diciamo che le proiezioni cominciano alle 16:40 al Cinema Aquila con cortometraggi, documentari, e poi ecco la sezione invece di lungometraggi internazionali è alle 20:20, quella dei lungometraggi italiani alle 22:30. Quante opere nel complesso presenterete? Beh, sono circa 100 film, 100 titoli, ecco 10 lungometraggi stranieri, 7 italiani, 20 documentari e poi il resto tutto cortometraggi, animazione, sperimentali. E tantissimi registi che verranno a questa 12ª edizione. Stiamo qui un via vai dall'aeroporto al cinema e quindi ecco, vi invito tutti a partecipare, ci sarà la possibilità poi di fare domande e risposte con i registi, incontrarli, e quindi si sta già cominciando a respirare l'aria del festival. Tra l'altro abbiamo avuto ospite poco fa Filippo Soldi con Suicidio Italia. Questo è un altro bel documentario, abbiamo veramente delle tematiche molto varie, insomma. Suicidio Italia, ecco, insomma, vi ha raccontato lui sicuramente. Abbiamo anche altri documentari, ecco, che parlano un po' della problematiche universitarie, teatri occupati, quindi passiamo sia alla, insomma, tematiche sociali e politiche, ma poi abbiamo anche commedie, tanta musica. Ecco, domani c'è il film americano che apre il primo film straniero in concorso, è 200,000 Dirty, dove c'è Coolio come protagonista, e quindi ecco anche tanta musica al riff. No, poi l'aspetto importante che dà l'idea anche di un festival misura d'uomo è l'incontro con gli autori. Fabrizio, per vedere la programmazione ci dai dei riferimenti? Guarda, sul nostro sito riff.it con 2F abbiamo inserito tutte le schede dei film, le foto, i trailers, e quindi c'è da divertirsi e da scegliere proprio con orari, sale e tutto quanto. Allora, in chiusura, un termine già è nella vostra dicitura, independent. Ecco, volevo chiederti qual è la caratteristica principale di questo festival, e poi anche il suo percorso, visto che siamo alla 12ª edizione. Ma la caratteristica principale è quella di voler cercare di trovare autori emergenti, nuovi, e ecco, come è successo anche nelle scorse edizioni, abbiamo visto che poi si sono rivelati e si sono affermati anche in altri festival molto importanti, per esempio ecco Steve McQueen, che quest'anno è stato premiato a Venezia, il suo attore Fassbender, che ha vinto il premio come miglior attore. Da noi è stato in anteprima italiana 4 anni fa con il film Hunger, e quindi ecco, ogni anno cerchiamo sempre di trovare dei nuovi autori, nuovi titoli da portare in Italia, e ecco, è giusto in questa settimana la possibilità di poterli vedere, e la speranza che poi vengano anche questi poi distribuiti, ci sia un po' più di attenzione da parte dei distributori. Bene, allora un abbraccio e un in bocca al lupo. Crepi, grazie tante, e ci vediamo al cinema, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Fabrizio Ferrari, direttore della 12ª edizione del Roma Independent Film Festival, qui a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, dal 4 al 10 aprile, quindi a partire da oggi. Allora, Lucia Cuffaro, per presentare il documentario L'economia della felicità, che sarà in programmazione oggi al Cineclub de Tour, giovedì 4 aprile. Lucia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie dell'invito. Allora, L'economia della felicità, raccontaci un po' di questo documentario e poi parliamo un po' più in generale dell'iniziativa di oggi. Allora sì, questo è un documentario che è già stato proiettato varie volte a Roma, proprio perché comunque ha un profilo molto importante. È prodotto e girato da Elena Norden-Hodge, che è una famosa attivista e scrittrice che ha scritto il libro Il futuro nel passato, che è stato tradotto in 42 lingue, ed è un documentario che racconta le 8 verità sulla globalizzazione, ovvero che cerca di mettere un pochino in relazione e ciò che succede a livello di economia, quindi di crisi, di stabilità economica, di cambiamento climatico, quindi di impatto sulla terra, e anche collegandolo con tutto ciò che è la depressione umana, la sofferenza, lo stress, la mancanza del lavoro. E per farlo, poi l'esempio di una regione nell'India, il Ladakh, che è sull'Himalaya, dove per tantissimi anni, anche se era già globalizzato tutto il mondo, non è arrivata l'economia americana, diciamo, intendendo la Coca-Cola, le grandi industrie, la l'omologazione, eccetera. Questo popolo viveva di prodotti della loro terra, del ritmo naturale delle cose, vivevano di condivisione, di danza, di musica, con una disoccupazione pari a zero, un livello di felicità altissima, un livello di coesione sociale altissima. Quando poi è arrivata con la costruzione delle strade e la globalizzazione, in realtà questo popolo ha cominciato a sentirsi povero, ma si è sentito povero perché non riusciva a stare dietro ai bisogni che gli venivano imposti, che non erano i loro bisogni, ma era quello che la pubblicità gli diceva che doveva essere. E questa sera lo proietteremo appunto al The Tour alle 9:30, preceduto però da un intervento di Emanuele Piccinno, che è un economista, che cercherà di spiegare un pochino come è possibile avere delle economie che non riguardano il pensiero dominante, ovvero che non l'economia come noi l'abbiamo in questo momento è un'economia imposta, è un modello dominante consumistico dell'usa e getta, della continua iperproduzione, della crescita del PIL, e cercherà di rispondere a delle domande e di spiegare come sia possibile un tipo di economia che si basi su criteri qualitativi e non quantitativi quanto la crescita del PIL. Si potrebbe definire, visto che ne hai fatto accenno a un'iniziativa sul pensiero della decrescita felice? Sì, noi che organizziamo siamo proprio il Circolo di Roma della decrescita felice. Il documentario, proprio tra i vari criteri che utilizza e che analizza, utilizza proprio la decrescita felice, che è, brevemente, spiegandola in modo molto breve, decrescita, forse in realtà la parola più giusta è accrescita, cioè il disinteresse verso un tipo di economia che considera solo la crescita del PIL come un unico parametro. C'è un bellissimo discorso di Bob Kennedy, fatto all'università americana negli anni 60, in cui lui elenca tutto ciò che fa parte del PIL. Nel PIL fanno parte, oltre che la pubblicità, fanno parte l'industria farmaceutica, fa parte l'industria della guerra, fa parte un disastro ecologico, perché il disastro della petroliera alza il PIL. Non fa parte del PIL tutto ciò che è importante veramente, cioè i rapporti sociali, le relazioni, l'amore, lo scambio, eccetera. Quindi tutti questi parametri, da poco tempo, piano piano, cominciano a essere sui giornali, se ne legge, la Banca d'Italia sta facendo uno studio su questo, quindi si sta cominciando a pensare che forse dobbiamo comprendere altri punti vitali per capire come uscire da questa crisi e da questa modalità di vedere le cose. E il film fa questo, cioè cerca di spiegare come dal basso, dalla rete, dai movimenti, si possa in qualche modo controvertire questo pensiero economico dominante. Otto punti, dicevi, del documentario. Ecco, ricapitolando, quali sono le ricette, chiamiamole così, tra virgolette, per la felicità, per un benessere delle comunità? Allora, innanzitutto viene posto un aspetto critico sulla pubblicità, cioè sì, di in qualche modo eliminare messaggi pubblicitari che comunque in questo modo ci portano anche a combattere uno stress di non essere adeguati, perché non riusciremo mai ad essere la macchina perfetta che è descritta dalla pubblicità. Inoltre parla di salute, di prevenzione, di cibo, di importanza anche delle culture contadine, dell'alimentazione e del comprare le cose non nei supermercati, ma anche di stimolare le reti del basso dei contadini, dell'agricoltura locale, del settore zero. E in generale comunque di riflettere su tutto ciò che sono i propri spazi quotidiani per limitare l'impatto ecologico su qualsiasi cosa, cioè dall'acquisto di alimenti con pochi imballaggi, al cercare di ridurre gli spostamenti, di ottimizzare, di lavorare anche di meno, ma di comunque investire anche sul risparmio attraverso l'autoproduzione. E tanti piccoli esempi, ci sono delle interviste anche a Vandana Shiv, parla in particolar modo anche sulle culture, sulle sementi, che poi c'è tutto un discorso anche su questo, cioè che comunque l'Unione Europea continua a sovvenzionare semi che sono anche modificati geneticamente a discapito di altri che in realtà sono molto molto più nutrienti di quelli poi sovvenzionati dall'Unione Europea. C'è poi anche tutto un discorso critico. C'è anche un discorso uscito questi giorni sui giornali della vittoria delle comunità, per esempio dell'India, rispetto alle ditte farmacologiche, rispetto alla cura del cancro con dei farmaci. Sì, dimmici. Ti dico solo una cosa: le ditte farmaceutiche spendono il 90% in pubblicità, il 10% è lasciato al personale, alla ricerca e alla produzione. Questo è per farti capire quanto non è la necessità di un farmaco, ma è comunque la pubblicità che spinge a fartelo comprare. I medici sono pagati, quindi comunque il tipo di lotta che è stata fatta in questo senso è sicuramente estremamente importante. Senti Lucia, ci puoi lasciare dei riferimenti internet per chi volesse saperne di più sulla decrescita felice? Allora sì, a livello nazionale abbiamo un sito curato da alcuni giornalisti, quindi con tutti i progetti, da www.decrescitafelice.it. Invece per chi volesse informazioni, aderire e fare un percorso di formazione, di sensibilizzazione a Roma, c'è il nostro sito del Circolo Romano che è www.mdsroma.it. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento di quest'oggi, l'economia della felicità, la proiezione del documentario preceduto però da una conversazione, immagino, al Cineclub de Tour. A partire da che ora, Lucia? Dalle 8 c'è l'incontro con l'Epoli per capire la proiezione del film. Benissimo. È con noi Agostino Pozzi, regista del documentario Ricostruire l'Aquila, che è in programmazione in questi giorni sui canali Rai. Agostino, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori, buongiorno. Allora, come mi dicevi l'altro giorno quando ci siamo sentiti, hai fatto diversi spostamenti, sei stato diverso tempo all'Aquila. Guarda, io ho cominciato a seguire gli eventi e poi tutte le questioni relative alla ricostruzione dell'Aquila da una settimana dopo il sisma, e abbiamo fatto due o tre documentari. L'ultimo documentario che è andato in onda l'altro giorno, mercoledì, si intitola Ricostruire l'Aquila ed è un documentario che cerca un po' di aggiornare la questione della ricostruzione all'Aquila a seguito del passaggio dalla fase commissariale alla fase della cosiddetta normalizzazione. Il 21 marzo il Comune dell'Aquila ha pubblicato quelle che sono le linee attuative per la ricostruzione dell'Aquila, è divenuto responsabile, diciamo, diretto per la ricostruzione. In questo documentario quello che abbiamo cercato, che ho cercato di mostrare, è stato i primi accenni di una ricostruzione all'Aquila nel centro storico e mostrare quelle che sono le linee direttive di un possibile sviluppo a fronte di un'incertezza sui finanziamenti. Insomma, ci sono le prime cifre, ci vorranno 10 miliardi di euro per la ricostruzione sia del centro storico, 5 miliardi, sia poi dei comuni del cratere, altri 5 miliardi. Agostino, continua, vai. Dimmi. Certo, rimane il dubbio di capire se questi finanziamenti che sono già stati inseriti e allocati arriveranno. Il problema è capire da dove verranno presi. Si parla della Cassa Depositi e Prestiti e si parla di 5 anni come stime ottimistiche fatte dallo stesso Cialente per la ricostruzione del centro storico. Ecco. Il documentario poi finisce, insomma, c'è l'ultima fase del documentario, si interroga sul problema dell'identità aquilana, insomma, dei e sullo sviluppo, sulle possibili linee direttrici dello sviluppo sia produttivo che formativo con l'università, con la ripresa dell'università. Sì. Ecco, a partire dalla questione casa, tra New Town e invece le case che sono di nuovo agibili, ecco, oggi all'Aquila gli abitanti hanno una sistemazione comunque a livello generale? Allora, da un punto di vista abitativo, tutti gli abitanti hanno una sistemazione, sono iniziati i lavori per il recupero dell'edilizia privata, dell'edilizia civile. Ad oggi sono aperti, a detta del Ministero per la Coesione Territoriale e del Comune, 2300 cantieri. Il problema vero e proprio sono i servizi, perché queste smart city o new town hanno seri problemi di servizi infrastrutturali. C'è un progetto che sta nascendo per la costruzione di questi servizi infrastrutturali, ma ad oggi non è iniziato e non c'è una data di inizio vera e propria. Parlando con gli abitanti dell'Aquila, il problema vero e proprio, oltre appunto all'estraniamento e all'alienazione che si prova a non poter rientrare nelle loro case, il problema è per le nuove generazioni. Sì. Mi dicevano che i figli, insomma, non hanno più il concetto di vivere una città e di sentire come propria la propria città, insomma, l'Aquila. Rifiutano di andare, specialmente i bambini più piccoli, all'Aquila. I centri di aggregazione sono diventati centri commerciali nella periferia aquilana, insomma. Ecco, proprio a questo proposito, a parte che insomma il contatto tra noi due lo dobbiamo a Giorgio Cardinali, che martedì, cioè due giorni fa, è venuto qui a fare lo spettacolo teatrale Uomini Terra Terra, che ripercorre tutto quanto ha preceduto il terremoto e gli allarmi non valutati nella maniera giusta. Volevo chiederti, ecco, rispetto a questo, al sisma, ci sono stati anche diversi documentari e per buona parte di questi una delle questioni che vengono poste è proprio quella delle new town che circondano l'Aquila come tanti piccoli satelliti, ma come dicevi te anche prima, è venuto a mancare proprio il concetto di comunità e insomma, sì, di un polo. Nel documentario c'è un brano in cui abbiamo anche cercato di fare un piccolo, breve paragone con il terremoto dell'Emilia. Per sintetizzare, insomma, ci sono degli slogan. All'Aquila si è cercato immediatamente, non so se demagogicamente o pubblicamente, di ricostruire tutto come era e dove era, o almeno questo era diciamo lo slogan. In Emilia si è ricostruito dove era, ma in molti casi non com'era, e all'Aquila adesso si comincia a parlare di smart city, cioè costruire meglio di com'era. Sinceramente dalla mia esperienza che ho diretta sul campo, questo meglio non prende in considerazione, ecco, l'aspetto psicologico, l'aspetto identitario, l'aspetto di appartenenza, sì, di una comunità, sì, al proprio territorio. Sì. Queste new town, non lo dico io, insomma, ma detta, come dicevo, dei cittadini aquilani, dovevano essere una soluzione ponte, insomma, ma sono diventate, diciamo, invece il futuro, insomma. C'è una grossa crisi di sfiducia da questo punto di vista. Durante la conferenza stampa che si è tenuta appunto il 21 marzo, alla presenza del ministro Barca, di Cialente e di Gianni Letta, ci sono state delle proteste vibranti da parte di alcuni cittadini, in cui si diceva che la fiducia va meritata con delle azioni concrete, e con ecco, delle notizie certe di finanziamenti comprovabili in poco tempo e ben delineati. Oh, in chiusura, un'altra questione è quella del centro storico, la zona rossa. C'è stato anche il fenomeno del popolo delle carriole che ha forzato i varchi per riprendere possesso di quella che poi è l'anima della città, dal punto di vista sia artistico che degli edifici proprio vissuti. Volevo chiederti, ecco, da questo punto di vista qual è la situazione? Allora, il centro storico, alcune parti del centro storico, ti faccio l'esempio del famoso vicolo in cui c'era il ristorante Le Tre Marie, che era un po' il fulcro del centro storico da un punto di vista anche turistico, sono ancora zona rossa, per cui sono interdetti al passaggio. Da un altro punto di vista si sono sbloccati quei famosi finanziamenti degli stati esteri di cui si era parlato durante il G8 e sono cominciati 26 cantieri di recupero di alcuni edifici storici dell'Aquila, non il Forte Spagnolo, il Duomo, la Chiesa di Ogni Santi, per cui c'è da quel punto di vista un tentativo anche non solo visibile ma anche quantificabile di recupero. È stato restituito all'Aquila il Palazzetto dei Nobili, che era un po' il centro culturale, insomma, di proposta culturale aquilana, e continuo a ripetere, molte zone al centro storico sono ancora chiuse. Il problema dell'edilizia privata, che era ed è pervasivo nel centro storico aquilano, rimane tuttora un problema aperto. Come dicevo, sono stati spesi 500 milioni fino ad oggi per la messa in sicurezza, ne mancano 4 miliardi e mezzo per il recupero del centro storico. All'Aquila, diciamo, adesso sono aperti 3 bar sulla direttrice di Corso Garibaldi, ma è difficile adesso poter pensare a una ripresa poi sia imprenditoriale che commerciale all'interno del centro storico. Agostino, per ricostruire l'Aquila, il tuo documentario, ci dai qualche riferimento internet per saperne di più? Sì, allora andrà in onda, allora domani andrà in onda su Restoria nuovamente alle 10.30 e poi sarà visibile su www.art.rai.it per tutto il weekend. Un abbraccio, ti ringrazio e a risentirci presto. Grazie. Ciao Agostino. Ciao, grazie. Agostino Pozzi, regista del documentario Ricostruire l'Aquila. Francesca Boschi, per quanto riguarda la ripresa dei martedì di Cineama, il nuovo Cinema Aquila, dal 9 al 30 aprile, purtroppo Francesca abbiamo un pugno di minuti, però intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie mille, saremo prestissimo. Allora, abbiamo ripreso, c'è stata già una prima serie di cui abbiamo dato conto, dici un po' di questo nuovo ciclo che sarà per tutto aprile. Sì, allora appunto i martedì ci sono già stati da gennaio a marzo, abbiamo poi insomma ripreso... voluto riprendere la rassegna in collaborazione col Cinema Aquila, che è sempre molto ospitale da questo punto di vista. E allora, per la rassegna di aprile, il prossimo appuntamento, allora innanzitutto in via generica, insomma, comunque i film sono sempre film indipendenti, tendenzialmente non distribuiti in Italia. Sì. E per cui, seguendo appunto questo discorso, abbiamo fissato il 9 aprile Essential Killing del regista polacco Skolimowski. Sì. E questo film, appunto, come gli altri, sono tutti premiati in grossi festival internazionali. Questo probabilmente insomma, si ricorda, aveva vinto il Leone d'Argento a Venezia e Vincent Gallo, che è il protagonista, ha vinto anche la Coppa Volpi come miglior attore. E, il 16 aprile sarà la volta di Cave of Forgotten Dreams di Herzog, un bellissimo documentario presentato a Berlino e anche a Toronto in, in 3D, in questo caso lo vedremo in 2D, e, che però è un bellissimo viaggio in questa grotta di Chauvet in Francia, che è stata ritrovata dopo 32.000 anni praticamente, quindi è un viaggio proprio nel interessantissimo tempo. Nell'uomo preistorico, cioè nel, nel periodo preistorico, diciamo. E il 23 aprile invece riproponiamo Kill Me Please di Olias Barco, era il film che aveva vinto nel 2010 il Festival di Roma, una commedia nera e grottesca molto molto interessante. E il 30 aprile infine sarà presentato The Yellow Sea del regista coreano Na Hong Jin, e questo è un intensissimo thriller noir appunto sudcoreano che proprio non è mai stato visto, cioè è stato presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard nel 2011, ma appunto non è proprio mai uscito al cinema in Italia. Bene, e ci dai riferimenti? Sì, assolutamente. Allora, appunto, tutti i film sono il martedì alle ore 20:30, presentati appunto al Nuovo Cinema Aquila in Sala 3. E per, come al solito, per i possessori della, del coupon Card Cineama, che è scaricabile dal nostro sito, il biglietto è come al solito scontato. E, il vostro sito internet? Il nostro sito è www.cineama.it. Benissimo. Un abbraccio e risentirci alla prossima. Va bene, grazie mille. Ciao Francesca. Ciao, a presto. Ciao, ciao. È tutto per Visionari, si torna giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, c'è anche la pagina Facebook, mentre sul sito internet della radio www.ondarossa.info è a trasmissioni Visionari.